A tempo di sport di Giovanni Capuano. Una difesa 3 da escludere. Sì, noi abbiamo avuto una difesa 3 soltanto una volta e abbiamo vinto il campionato perché nelle ultime partite l'abbiamo cambiata. Pato deve riprendersi perché è importantissimo, era il giocatore più incedibile di tutta la rosa. È un ragazzo solido con i piedi per terra che già si è dichiarato per quello che ha come valore e penso che farà benissimo. Penso che c'è la possibilità di fare molto meglio di quanto non abbiamo fatto e adesso partiremo da alcuni punti elementari e lavoreremo. Ce ne dice qualcuno visto che lei no, è l'allenatore che deve fare, se no dite che io faccio, prendo il posto dell'allenatore. Buon pomeriggio amici di A Tempo di Sport, 800 24 00 24, telefonateci per dire che cosa ne pensate di questo super sabato di calcio e non solo, perché si è appena chiusa la partita di rugby tra Italia e Nuova Zelanda. Abbiamo perso 42-10, un po' nel solco della tradizione, facendo anche una bella figura per almeno 60 minuti. Diteci che cosa ne pensate, perché poi andremo in diretta anche all'Olimpico con il nostro Giacomo Bagnasco. Parleremo ovviamente di calcio partendo da Napoli-Milan di questa sera e dall'effetto Berlusconi. Saluto Mario Sconcerti, buon pomeriggio Mario. Buon pomeriggio a tutti. Leggendo oggi i giornali, se vale il giudizio degli osservatori, la visita di Berlusconi ieri a Milanello potrebbe aver cambiato il prossimo futuro, almeno in questa stagione del Milan. Hanno esagerato tutti, questa sera si può già vedere qualcosa, che cosa ti aspetti? Ma sinceramente mi aspetto una partita in cui il Milan dovrà subire, certamente soffrire. Queste visite sono molto utili, ma da un punto di vista tecnico temo cambino poco, altrimenti sarebbe bastato farla prima. Vediamo, non ne ho idea, non posso misurare questo tipo di situazione. Quello che posso dire è che mi sembra che la partita ha un favorito e questo è il Napoli. Di sicuro è tornato un po' di entusiasmo in casa Milan, ripeto, almeno a scorrere i giornali, un po' tutti, senza troppe differenze. Io credo che l'unico effetto concreto sia che questa sera è stata tolta un po' di pressione dalle spalle di Allegri, perché fino a ieri in tanti sottolineavano questo calendario difficilissimo nella prossima settimana e mettevano l'ennesima scadenza alla sua panchina. Io penso che Allegri possa tranquillamente sedersi questa sera al San Paolo con la certezza che c'è un domani, non un dopodomani, ma un domani sì. Ma vorrei pensarlo, perché mi sembrerebbe la cosa più logica, però Galliani è stato anche abbastanza chiaro quando ha detto che poi tutti dipendono sempre dai risultati. E adesso c'è una partita molto dura, poi c'è la partita di Champions che è decisiva addirittura, e poi c'è la Juventus. Se Allegri fosse tranquillo in questo momento, temo che sbaglierebbe qualcosa. Tu ritieni che Allegri in qualche modo accontenterà le richieste tattiche di Berlusconi già da questa sera? Noi abbiamo provato a condensarle nella nostra pillola iniziale, niente difesa 3, Bojan dietro le due punte, Pato schierato con il Sharawi, Montolivo regista. Hai l'impressione che già da questa sera Allegri cercherà di allinearsi a questi desideri? Io credo che possa, che cercherà certamente una via di mezzo, perché andare contro la società in questo momento sarebbe sciocco, che andare contro se stesso, il tecnico è lui e deve trovare lui soluzioni tecniche. Credo che cercherà una via di mezzo. Certo, quando si dice che Pato e Sharawi possano giocare, si dice una gran bella coppia di attaccanti, non c'è niente di profano, se poi Pato però gioca a pallone. Quando si dice Montolivo regista, si dice una cosa che non è il suo ruolo, ma che nel Milan fare meglio di Montolivo. E poi, insomma, si dicono cose di buon senso comune, cioè senza l'ingresso della società, insomma, mi sembra che si possa essere tutti d'accordo su questo. C'è qualche problema di linea, vediamo se riusciamo a chiudere la chiacchierata, abbiamo ancora un minuto. Volevo capire se lo ritieni, quello disegnato da Silvio Berlusconi, il migliore dei Milan possibili, cioè il Milan che in questo momento davvero può colmare con un po' di ragionevolezza quelli che poi sono dei limiti che sono evidenti a tutti in questa stagione. Ma io credo che il Milan sia una buona squadra normale, nel senso che può arrivare terza o ottava, certamente farà punti in più e scalerà posizioni, però non so se sarà la squadra che pensa Berlusconi, io sinceramente non lo credo. Credo che sia una squadra appunto tra il terzo, l'ottavo, nono posto. Questo è il, insomma, ci sono molti giocatori, soprattutto in difesa, che non valgono questo tipo di classifica. Grazie Mario Sconcerti. Ciao, ciao. Grazie a Mario Sconcerti, editorialista del Corriere della Sera, collega di Sky. Io saluto già Giuseppe Sannino. Buon pomeriggio, mister. Buonasera a tutti. Vi ricordo i contatti 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma poi potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook a tempo di sport trattino Radio 24, che ricordo è una bacheca che rimane aperta tutta la settimana, oppure via Twitter, l'account è @CapuanoGio. Sannino, ha sentito Sconcerti, condivide l'analisi sul Milan, squadra che si può posizionare tra il sesto e il nono posto, ha detto, ma che certamente non è destinata a una stagione così come è stato questo primo terzo di campionato, perché in fondo oggi con la tredicesima celebriamo il primo terzo di questo campionato. Le statistiche il direttore farà molto meglio di me. Io credo comunque che il Milan stia attraversando un periodo così di involuzione, ma che comunque è dettato anche dal fatto che hanno lasciato grandissimi giocatori e sono andati in altre società. Sicuramente il Milan guarderà al futuro cercando di far crescere una nuova formazione per poter poi dopo ambire ai fasti che merita, insomma, le competizioni che merita. Io credo che quest'anno sarà un anno di passaggio comunque. Sì, questo non c'è dubbio, poi vedremo nell'immediato, vedremo nel presente se davvero esiste l'impatto positivo di questa visita di Berlusconi, che ha restituito un po' di tranquillità e un po' di entusiasmo a tutto l'ambiente. Ci fermiamo un minuto di notizie sul traffico e poi proviamo a gettare lo sguardo su tutta questa tredicesima giornata, che è una giornata tutt'altro che banale, mister, per la Serie A, perché può cominciare già a dare qualche risposta, anche perché, lo ripeto, siamo ormai a un terzo del campionato e quindi è vero che siamo all'inizio, però è anche vero che alcune tendenze possono cominciare a essere consolidate. Traffico. A tempo di sport. Io ricordo ancora i contatti 800 24 0024 per parlare in diretta. Intanto c'è Bonucci a Sky Sport. Per andare stasera a più 7 dall'inseguitrice, quindi scenderemo in campo con la massima cattiveria, poi da stasera alle 9 cominceremo a pensare al Chelsea. Eh sì, perché c'è il Chelsea che incombe, Chelsea che tra l'altro sta giocando proprio in questi minuti ed è sull'1-1 contro il West Bromwich Albion, una partita difficile, evidentemente l'effetto Champions pesa anche per gli inglesi, e ha detto Bonucci non dovrà condizionare però la Juventus. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, a tempo di sport trattino Radio 24 è invece la pagina Facebook, @ Capuano Gio per scriverci, su Twitter. Intanto 2-1 per il West Bromwich sul Chelsea, altro che effetto Champions che non pesa, Sannino. Io ho l'impressione che peserà anche sulla Juventus, al di là delle parole di Bonucci. Sì, però io credo che ormai il calcio non c'è niente di sicuro, perciò io credo che intanto la Juventus stasera penserà al campionato, e come ha detto lui vorranno allungare. Sicuramente è una partita importante contro una squadra, la Lazio, che ha dato segni nel derby di risveglio da qualche piccolo passo falso e che comunque poi proietterà la Juventus alla partita di Coppa. Però intanto mancava Pirlo e si sapeva perché mancava per squalifica. Mancherà anche Vucinic perché è stato fermato da un attacco febbrile. Io ho l'impressione che se questa fosse stata la partita della vita probabilmente Vucinic avrebbe giocato. Credo ci sia anche un po' di prudenza nelle scelte. Beh, credo che solo Conte sa come poter gestire i propri giocatori sicuramente, però io so che la Juventus credo che quando un animale è ferito cerca già sempre l'ultima zampata. La Juventus è una squadra caratterialmente forte, non si ferma davanti a un infortunio di un giocatore sì importante come Vucinic, ma sa che stasera la posta in palio è alta, perché se riuscirà a battere la Lazio sicuramente fa un bel passo in avanti, però lo gioca contro una squadra importante. Sì, da sottolineare che dopo la sconfitta contro l'Inter questo è forse il primo vero ostacolo, perché sono arrivate le due vittorie rotonde, belle, in belle, cui abbiamo belle, visto la Juve cattiva, belle, però aveva belle davanti Norsieland e Pescara. Con tutto il rispetto, io credo che quello di questa sera sia un test da un certo più punto provante, di vista più importante. Sì, certo. Sì, però come detto prima, non sono partite facili. Io vedo le squadre a volte da fuori e vedere la Juventus come ha giocato queste due partite dopo l'impatto con l'Inter sicuramente ha dato l'impressione di una squadra che vuole riprendere il cammino dell'anno scorso e della prima parte del campionato, ma perdere contro l'Inter comunque secondo me può essere stato anche una brutta sconfitta, ma la legge dei grandi numeri prima o poi devono cadere, e essere caduti contro l'Inter secondo me ha dato la spinta alla Juventus di dimostrare di essere e di voler essere ancora la squadra di prima. Mi incuriosisce invece questa sera in Napoli-Milan Lorenzo Insigne, che complice l'infortunio di Pandev parte dal primo minuto, parte in una ribalta importante, perché è vero che paradossalmente questa partita è un test a coda con il Milan nel ruolo della coda, però è anche vero è strana da vedere. Però è anche vero che è una serata importante per un giovane talento in una stagione in cui i 92 e quelli ancora più giovani si stanno facendo vedere. Ebbene, basta dare un'occhiata alla classifica marcatori con la mele del Sharawi. Insigne, tutti ne dicono bene, però fin qui non ha ancora avuto la ribalta, quella importante. Però voglio spezzare un'ancia a favore del ragazzo. Lui non è un finalizzatore. Lui, secondo me, è un giocatore che può dare il là a finalizzare. Lui ha grandi qualità tecniche. Non va pesato col numero dei gol? Secondo me no, non è il giocatore che bisogna aspettarsi la doppia cifra sempre in un campionato. È un giocatore che comunque dà grande affidabilità sotto l'aspetto della giocata, dell'imprevedibilità. È un fantasioso. È un ragazzo che comunque gioca nella sua città. Secondo me dargli troppe aspettative a volte può anche non rendergli quello che merita veramente. Per me Insigne è un ottimo giocatore, un giocatore che fa parla di sé e che comunque gioca già in una struttura a Napoli, che Mazzarri è stato davvero bravo in questi 3 anni a portare alla ribalta. Io credo che davvero bisogna fare i complimenti a Walter, perché ha portato il Napoli proprio all'eccellenza. Sì, possiamo dire che Insigne rischia forse di pagare l'etichetta con quei grandi numeri della scorsa stagione nel Pescara di Zeman, perché è arrivato, io adesso non ricordo, ma certamente più di 20 gol segnati, e comunque rischia di essere poi un'etichetta che ti rimane appiccicata se poi sei un giocatore un po' diverso. La Serie B è una cosa, la Serie A è un'altra. Non c'è dubbio. E sicuramente comunque Insigne secondo me deve essere giudicato non per i gol, ma per quello che lui riesce a fare per la propria squadra. Sanino, ci sono Roberto da Modena e Claudio da Firenze, li prendiamo insieme. Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Dottor Capuano, grazie per farmi partecipare alla trasmissione. Prego, la sua domanda. Volevo dire che io, no, non è una domanda, è una constatazione. Io penso che di non essere assolutamente d'accordo con la lettura che voi fate del fatto che Berlusconi rientra nella squadra, rientra in campo, assolutamente. Beh, non la facciamo noi, io citavo, sì, no, ho letto i giornali di oggi. Giornali. Io 2 o 3 giorni fa, quando lui è andato a Milanello in elicottero, ho sentito anche nella vostra trasmissione come se lui non ci fosse stato nel momento della vendita di Ibrahimovic, Thiago Silva. E adesso da salvatore della patria rientra, lui rientra, ma c'era anche prima, perché non credo che non c'è dubbio. Non c'è dubbio, sì, ha ragione Roberto. 100 milioni di euro solo la cessione di due giocatori, cioè lui ha preso parte, faceva parte e ha fatto lui la scelta. Non c'è dubbio. Io credo, e la ringrazio Roberto, mister Sannino, che però la differenza la possa fare quella voglia che dopo tanti mesi, per la prima volta Berlusconi sembra aver rimesso nel mettersi al centro del mondo Milan, pur con tutte le contraddizioni, compresa quella di dire El Shaarawy, che in fondo in questo momento è la faccia pulita di quella squadra, l'ho scelto io, l'ho voluto io, e in tanti sanno che negli ultimi due anni Berlusconi ha probabilmente inciso pochissimo nelle scelte del Milan. Ma io credo che quando il papà va vicino alla sua creatura, credo che faccia bene. Se il presidente Berlusconi si è avvicinato in questo momento non bellissimo del Milan, sicuramente è un inizio di fiducia per questi ragazzi, che credo che anche loro quando vanno in campo e non vedono i risultati che tutti si aspettano, soffrono. Perciò Berlusconi ha avuto altro da fare in questi anni, si è un po' allontanato, ma sicuramente è stato sempre vigile intorno al Milan, anche perché c'è una persona talmente carismatica vicino che è Galliani, che credo che tra i due c'è davvero grandissima collaborazione, avranno saputo fare quello che c'era da fare, ma credo che comunque ci sia un'area di rinnovamento nel Milan, credo. Intanto sentiamo una battuta di Marotta a Sky Sport. Per giocare contro, in questo caso, la Lazio, tenendo chiaramente in considerazione che martedì abbiamo un altro match molto importante. Ecco, avete riguadagnato 3 punti sull'Inter nell'ultimo turno, quindi siete a più 4, però questo Inter-Juventus a distanza continua. Non so se ha voglia di replicare ulteriormente a quello che ha detto Cassano. Sentiamo la replica quello che ha scritto di Marotta attraverso il sito della Juventus. Volevo sapere anche, conoscere le sue parole. Ma non mi sembra, lo conosce Cassano, di alimentare ancora polemiche. Dico solo che Conte ha risposto indicando quello che era il profilo del giocatore adatto per la Juventus, non era riferito a Cassano. Quando poi Cassano magari nella risposta ha messo il dito sulla piaga dicendo che insomma Conte è privo di moralità, evidentemente ha toccato l'onore Conte, e credo tutti, no? Perché sarebbero tutti un po' indispettiti da questo, quindi mi sembra giusto puntualizzare questa cosa, nel senso che si è ingigantita una risposta allora quando invece Conte voleva semplicemente indicare quello che è il profilo della Juventus, che credo che sia il profilo anche. Però insomma mi pare che si poteva anche chiudere prima, mister Sannino, questa cosa fra Conte e Cassano. Noi ieri da questi microfoni abbiamo lanciato l'appello a Marotta e ad Agnelli perché ci pensino loro a far stare zitti. Beh, due che sono in fondo loro dipendenti. Speriamo che ci pensino loro allora. Ecco, Claudio da Firenze, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, signor Capuano. Prego. Io volevo intervenire sul Milan, perché sono milanista dalla nascita, ma io vedo tutti i difetti del Milan, che ora se ne parla anche troppo. Per me dipende solo dalla perdita del campionato dell'anno scorso, perché noi avevamo un campionato in mano e l'abbiamo perso. Io prevedo che perdendo questo campionato noi ci si trova in queste condizioni. Bastava le ultime 5 partite mettere in campo Pippo Inzaghi e Shaarawy, che era in tribuna, e noi si vinceva il campionato, a prescindere dai discorsi perché non abbiamo preso Tevez, non abbiamo venduto Pato, tutte queste cose. Però per me era un campionato vinto, purtroppo l'abbiamo perso per errori. Avrebbe in qualche modo forse cambiato anche la storia recente di questo Milan. Grazie Claudio, io in parte lo sottoscrivo, poi in realtà credo che il grosso problema del Milan l'anno scorso sia stato l'infortunio di Thiago Silva a marzo. Quello sì, ha privato il Milan di una pedina fondamentale, e da lì in poi, lo dicono anche i numeri, l'andamento del Milan in campionato non è più stato quello dell'inverno, cioè quello che aveva portato i rossoneri ad avere 4 punti di vantaggio sulla Juventus. Intanto Giorgio De Luca in redazione, mister, ci precisa, Insigne 18 gol nel Pescara e l'anno prima ne aveva fatti 19 nel Foggia. Questi sono i numeri di Insigne. E adesso c'è l'esame della Serie A. A proposito di esami, che cosa si aspetta dall'Inter, dove tornano Ranocchia e Samuel? Evidentemente a Bergamo non è piaciuta la difesa, e quindi, per quanto probabilmente non ancora pienamente recuperati, Stramaccioni ha bisogno dei suoi uomini migliori lì dietro, mentre Sneijder sta fuori. Dopo una sconfitta, sicuramente una squadra come l'Inter, che ha fatto vedere a Torino di essere davvero, insieme al Napoli e alla Fiorentina, anche la stessa Lazio, le squadre che possono davvero mettere in difficoltà sulla sua classifica la Juventus, cercano un riscatto immediato, sicuramente, ma queste sono comunque parole che lasciano il tempo che trovano. L'Inter si è dimostrato una squadra solida, una squadra matura, e Tramaccioni è stato bravo, nonostante la giovane età, devo fargli complimenti. E poi ci sono due partite interessantissime domani, quella fra due rivelazioni che è Fiorentina-Atalanta, e poi questo derby della paura tra Samp e Genoa. Potendo lei, dove andrebbe? Samp-Genoa, perché il derby è sempre affascinante, no? Peccato che è un derby dove vedono due tifoserie di questa città un pochettino in difficoltà, tutto l'aspetto dei punti. Però ho visto domenica Genoa-Napoli, devo dire che il Genoa al primo tempo ha fatto un'ottima partita, e sicuramente con Del Neri, che ha preso la squadra da poco, pian pianino si potrà vedere meglio la sua mano. La Sampdoria mi spiace che sia in una grande difficoltà, perché ormai sono 6-7 partite, mi sembra giusto, che hanno perso, e dopo un avvio importante. Inizialmente si parlava di questa Sampdoria, ha vinto, sì, sono 7 sconfitte consecutive per la Samp, 5 per il Genoa, insieme fanno 12, bisogna vedere se uno dei due farà 13. Bella questa. O se invece la paura domani ci regalerà un derby in cui probabilmente sono meglio due feriti di un morto, ma ovviamente non per un accordo. Non credo, perché la posta in palio è alta, e poi sicuramente si vedrà una partita maschile, una partita dove davvero una delle due vorrà venire fuori, e da questo momento è davvero brutto. Grazie a mister Sannino. Io ringrazio voi, siete molto gentili. Grazie a Giuseppe Sannino. Noi ci fermiamo un minuto per il traffico. Io ricordo ancora i nostri contatti: 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, come quello di Massimiliano da Udine, che dice: stasera il Milan toglierà dalla corsa scudetto il Napoli, ma in Champions farà un buco nell'acqua contro l'Anderlecht. Poi potete scriverci su Facebook a Tempo di Sport - Radio 24 o su Twitter @CapuanoGio. Pubblicità. 800 24 00 24 per dirci la vostra in diretta su Napoli-Milan di questa sera, sugli All Blacks, perché fra una decina di minuti andremo in diretta dall'Olimpico di Roma per raccontarvi tutto il dopo partita di Italia-Nuova Zelanda. Io vi ricordo il risultato: 42-10 per gli All Blacks, ma per almeno un'ora abbiamo tenuto il campo con grande dignità, anche se non tutti la pensate così, e stanno arrivando già tanti messaggi al 349 238 6666. Fortunato da Bologna, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Capuano. Prego. La ringrazio per avermi dato questa possibilità. Tanti, ho sentito la vostra trasmissione finora, tanti hanno parlato della Juventus che ha l'occasione per allungare, tutte queste cose qui. Nessuno ha preso in considerazione la Lazio, che questa sera, tra mezz'ora, affronta la Juve senza Pirlo e senza Vucinic. Io vorrei sapere attaccante o con quale altro regista la Juve può contrastare il centrocampo della Lazio, la difesa della Lazio soprattutto. Quello di stasera è un bel test, io credo, anche per Pogba nella posizione di regista. Intanto sentiamo Lotito, presidente della Lazio, Sky Sport. Affrontarsi con la Juve implica massima concentrazione, spirito di gruppo unito, grande determinazione, grande spirito di umiltà, spirito di sacrificio. Sano agonismo, nella consapevolezza che la Juve in questo momento è la squadra, stando anche alla classifica, più forte del campionato, e quindi questi aspetti sicuramente non devono mettere né nella condizione la squadra né di essere intimorita né chiaramente di assumere un atteggiamento spavaldo. Io penso che la squadra debba mantenere quel profilo che le dicevo, che ha mantenuto nelle ultime partite, dove ha dimostrato attraverso questo, senza sottovalutare l'avversario e senza esaltarsi, la possibilità esprimere le proprie potenzialità. Questa è una squadra che ha le potenzialità per confrontarsi alla pari con tutti, e mi auguro che questa sera riesca a dimostrarlo. Questo Lotito sulla Lazio, pochi minuti prima di Juventus-Lazio. Buon pomeriggio a Massimiliano Nerozzi, inviato della Stampa. Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao Massimiliano, buon pomeriggio. Leggo dal tuo tweet, chiocciola Max Nerozzi, la formazione Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Isla, Vidal, Pogba, Marchisio, Asamoah, Quagliarella, Giovinco. Parlavamo prima con un amico, un ascoltatore, che ci ha chiamato all'800240024. Questo è un bel test anche per Pogba in quella posizione, senza Pirlo. Guarda, è un bel test per Pogba sicuramente, anche se ha già giocato una volta e poi dopo Conte ha fatto spesso giocare a mezzala. Io francamente penso che la notizia di oggi, anche se un po' era stata annunciata sui giornali, è un po' la Juve che fa giocare gli stessi uomini di Pescara, probabilmente saranno gli stessi col Chelsea, e quando invece il Chelsea, correggimi se sbaglio, sta giocando West Bromwich perdendo, almeno fino a... Sta perdendo 2-1, mancano 9 minuti. Sì, però ne ha cambiati 5 rispetto alla prova di formazione di martedì. Io penso che questo sia un bel rischio che la Juve si assume. L'assenza di Vucinic non è proprio in vista della gara contro il Chelsea di martedì? Non c'è un po' di attenzione? No, perché Vucinic ha la febbre, è andato a casa dal ritiro per l'influenza e quello si sapeva da qualche ora. Piuttosto gioca esattamente la stessa formazione di Pescara, cioè Isla, e c'era comunque Big Steiner volendo, e insomma comunque i cambi non mancano, voglio dire, il mercato è stato fatto in funzione di costruire due squadre, e quindi questo un po' sorprende, anche perché col Chelsea era andata, ricordiamo che ci fu Genoa-Juventus, poi Juventus-Chievo e furono cambiati rispettivamente 4 e 5 giocatori rispetto alla formazione di Londra. Tra l'altro a Genova dovette entrare poi l'armata pesante nel secondo tempo, perché altrimenti quella partita si stava mettendo davvero male, ma quello fu un segnale da un certo punto di vista. Io credo che Conte cercò di dare in quel momento, cioè quella della possibilità di giocarsela con due squadre diverse. Hai l'impressione invece che la scelta di questa sera, che giustamente hai sottolineato, cioè di dare continuità e probabilmente di confermarla poi anche nella partita di martedì sera contro il Chelsea, nasconda qualche significato, ad esempio sulle priorità che la Juventus affida in questa stagione tra Champions e campionato? Sicuramente rivincere il campionato è una priorità anche per il Conti, come tutti sappiamo benissimo, però insomma sarebbe anche un pessimo segnale per la Juve, per il calcio italiano, che la squadra che l'anno scorso ha dominato il campionato e ha giocato probabilmente il miglior calcio venisse buttata fuori al primo turno di Champions League. Non c'è dubbio. Intanto arriva la Lazio, siamo stati invitati a non sottovalutarla e non lo facciamo, ma non lo facciamo in maniera convinta, non lo facciamo volentieri, perché la Lazio da questo punto di vista io credo rappresenti anche per la Juventus in sé un test importante, perché dopo la sconfitta contro l'Inter è vero che sono arrivate le due vittorie larghe, belle, ne parlavamo prima anche con Sannino, contro Nordsjælland e Pescara, però è anche vero che questo è il primo test che riporta l'asticella un po' più in alto. Si la riporta su in alto, e io nonostante la formazione che diceva prima titolare, ho l'impressione che stasera cammin facendo, se la partita va in equilibrio e fu sempre equilibrata che l'anno scorso la sfida, possa farlo di nuovo i cambi, la panchina, la Juventus un dato, è una squadra che segna di più con gli uomini entrati, 5 mi sembra, la Lazio è l'ultima, non ha mai segnato con chi entra dalla panchina. Mi sembra anche questo un dato abbastanza indicativo della sfida. Da questa sera che segnale può arrivare? Perché in fondo siamo alla 13ª, significa che siamo a un terzo della stagione. Io penso che una Juventus che pure in questo contesto e in queste condizioni riuscisse questa sera a uscire bene dalla partita contro la Lazio, probabilmente darebbe un segnale, non dico definitivo, ma molto importante al campionato. Beh, sicuramente molto forte, perché storicamente le squadre che sono impegnate in Champions League lasciano abbastanza punti sul tavolo proprio a novembre-dicembre, quando si stringono i gironi della Champions. Se la Juve arriva in volata già alla virata del 2013, sicuramente non è un grande segnale di speranza per chi insegue. No, non c'è dubbio. Per chiudere, Quagliarella Giovinco, al netto del poker di gol segnati in due al Pescara, prima di quella partita non avevano mai trovato la porta. È la coppia giusta, può essere la coppia giusta in assenza di Vucinic? Sono dentro a furor di popolo perché è impossibile tenere fuori Quagliarella visto le sue medie. Insomma, secondo te da dove nasce questa scelta? Ma nasce che Conte da un anno e mezzo che sta giocando su determinate tracce di gioco e sono i giocatori probabilmente più adatti per fare, cioè la para sempre a terra, dialogo con i centrocampisti, piedi buoni per fare gli inserimenti di stessi centrocampisti. Si è visto che anche quando Bentner ha giocato, lo stesso Matri, che pur ha fatto dei progressi, non hanno i piedi per calarsi in questi fraseggi e fanno molta fatica. Sì, non c'è dubbio. Intanto 4 minuti alla fine e il Chelsea è appena andato vicinissimo al gol del 2-2, non l'ha però realizzato, dunque Chelsea che è sempre sotto 2-1. Grazie a Massimiliano Nerozzi. Grazie a voi, buon lavoro, buona serata. Grazie a Massimiliano Nerozzi, inviato della stampa allo Juventus Stadium. Buona partita, rapidamente anche la formazione della Lazio con Marchetti, Biava, Conco, André Dias e Radu in difesa, Brocchi, Ledesma, Hernanes, Gonzalez, Candreva e Klose che gioca come punta unica. Klose che a Torino non ha mai segnato. Dalla Premier, vi abbiamo detto, c'è il Chelsea che sta perdendo per 2-1, non è l'unico risultato in questo momento di una partita in corso. C'è anche il 5-0 del Manchester City contro l'Aston Villa, gol di Dario Silva e poi doppiette di Tevez e Dagüero. Una partita però che farà discutere soprattutto perché Balotelli è seduto in tribuna. Balotelli, lo abbiamo visto in nazionale, sta benissimo e quindi è difficile non parlare di una scelta tecnica, probabilmente anche disciplinare, di un rapporto sempre più logoro tra Mancini, il City e Balotelli. E ieri Berlusconi ha confessato che Balotelli gli piace e molto. E in tanti scrivono anche oggi che sono in corso i primi approcci per vedere se il passaggio in Italia di Balotelli possa essere fattibile già dal mese di gennaio. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i messaggi, @CapuanoGio su Twitter, @TempoDiSport_Radio24 su Facebook. Ci fermiamo, un minuto di traffico e poi parliamo anche di rugby. Rigore, una partita, un voto di io, destino dei fuochi, destino dei fuochi, vacca ma te cuore, vacca ma te cuore, o te ne te tannata, nana in tinti, vacca vittite, paupa, paupa, paupa, ne tu palle vittitera. Questa era la H della Nuova Zelanda, oggi pomeriggio all'Olimpico, poi si è giocato a rugby e poi come al solito ha vinto la Nuova Zelanda 42-10. Buon pomeriggio Giacomo Bagnasco dall'Olimpico. Buon pomeriggio a tutti. Come la possiamo classificare così, cercando di dare il titolo a questo pomeriggio di rugby? Ma visto che non è giusto e ormai è anche un po' stucchevole parlare di onorevole sconfitte, possiamo dire che è un'Italia che per 70 minuti è stata all'altezza della Nuova Zelanda. È importante, non è sufficiente, però è importante. Per 70 minuti è stata sul 23-10, poi sono arrivate tre mete negli ultimi 10 minuti abbondanti e il risultato è diventato un po' più rotondo, anche se leggevo oggi sui giornali, dove si faceva la statistica dei nostri confronti con gli All Blacks, siamo rimasti più o meno nella media. Sì, la media è quella, c'è un 50-10 credo sia la media degli incontri tra noi e gli All Blacks. Certo, bisogna cercare di migliorarla questa media. Io tra parentesi ne vorrei parlare con Edoardo Ugo Gori, 22 anni, il mediano di mischia di questa nazionale, quantomeno oggi mediano di mischia titolare, ha avuto la pazienza di aspettarci. Di neozelandese sicuramente l'ha infradito nonostante la stagione. E i neozelandesi se li ha trovati di fronte intanto con questa H per la prima volta, che effetto ti ha fatto? Buonasera a tutti, vedersi l'H davanti, soprattutto quando uno gioca a rugby da quando ha 5 anni e la vede sempre in televisione, per la prima volta è una cosa bellissima, ero veramente molto emozionato, ma non è che faccia paura come tutti pensano, credo che dia la carica anche alla squadra avversaria. È veramente una bella danza. E l'Italia carica lo era, si è vista un'Italia con più voglia di giocare del solito, che ha costruito e voluto a tutti i costi la meta che poi è venuta grazie a Sgarbi. Si è vista un'Italia di giovani, ci sei tu, ma abbiamo visto Minto, abbiamo visto Favaro veramente non intimoriti. Sì, perché abbiamo preso come opportunità poter giocare contro i primi al mondo e poter dimostrare quanto valiamo noi. Purtroppo i 40 punti ci sono stati e fanno molto male, però quei 70 minuti, 68 come sono, insomma, danno un po' di fiducia e dobbiamo portare la voglia che avevamo in tutte le partite che giochiamo. Giacomo, se posso chiedere al tuo interlocutore, certo, quanto comincia a dar fastidio anche a loro che poi vanno in campo questa etichetta di sconfitta onorevole? Te lo dico perché stiamo ricevendo tanti messaggi tra SMS, Facebook e Twitter in cui sostanzialmente ci viene detto proprio questo, cioè va bene l'H, va bene il fascino dei migliori al mondo, della sfida dei migliori al mondo, però è anche ora che il rugby italiano provi a giocare con queste realtà guardandole negli occhi. Ti dico, la sconfitta onorevole è la cosa che fa più male, perché sempre sconfitta è quando uno fa uno sport o nella vita, quando perdi non serve a niente perdere di poco o di tanto, sempre perso hai, per cui noi ci stiamo lavorando, è un percorso lungo sicuramente, perché ci vuole tanto coraggio e tanta voglia, quella l'abbiamo messa, purtroppo quando finisce la benzina, gli ultimi 10 minuti non abbiamo più gambe, c'è poco da fare, perdi contro queste squadre. Sì, c'è il rischio che poi si dilati poi il passivo anche oltre i meriti e i demeriti di questo pomeriggio. Giacomo? Sì, il passivo effettivamente è un po' troppo pesante, Edoardo elegantemente non dice, anche perché il rugby si gioca non in 15 ma in 23, che poi tutto sommato lui non era neanche più in campo quando la squadra è rimasta sulle gambe, ma questo vuole dire poco. Sicuramente, ecco, l'idea anche degli ascoltatori di dire le onorevoli sconfitte non bastano è giusta. Pensare poi di battere la Nuova Zelanda, che è una squadra che in 100 e più anni di storia di match internazionali è stata sconfitta solo da 5 nazionali, è un altro discorso. È una di queste 5 nazionali che ogni tanto battono la Nuova Zelanda, è proprio l'Australia, che affronteremo sabato prossimo a Firenze. Australia che ha cominciato malissimo la sua tournée sabato scorso, perdendo 33-6 in Francia, però oggi a Twickenham ha battuto la signora Inghilterra 20-14. E quindi anche loro arriveranno caricati? Direi di sì. È un'Australia che ultimamente sembra un po' calata, perché hanno tantissimi infortuni, però sicuramente è una delle migliori 3-4 squadre al mondo, per cui dovremmo mettere la stessa passione che abbiamo messo questa partita e speriamo che non ci sia un'altra sconfitta onorevole, ma di portare a casa una vittoria che ne abbiamo tanto bisogno. Giacomo, che cosa dobbiamo chiedere invece secondo te alla terza partita, quella di sabato prossimo? Poi avremo tempo di parlarne anche sabato prossimo e poi anche domenica in questi nostri appuntamenti con il rugby, cioè alla luce della prestazione di oggi, che mi sembra comunque ci conforti più di quella di sabato scorso contro Tonga, dove eravamo stati ed eri stato anche abbastanza critico al di là della vittoria. Noi possiamo chiedere all'Italia di giocare come ha giocato oggi, soprattutto quanto intensità, in difesa e con la pressione in ogni parte del campo. Veramente in alcuni momenti la Nuova Zelanda è stata messa in difficoltà, ha concesso mischia, ha concesso punizioni. Si può sperare di ripetere questa prestazione? Poi giustamente sentivo Edoardo che lo diceva prima un altro cronista, è sbagliato e non è da grande squadra giocare bene, giocare oltre il proprio livello solo quando si affronta una formazione impossibile da battere. Quindi stavolta c'è un'altra formazione difficilissima da battere, però sicuramente questa Italia, se inanellasse un'altra prestazione di questo livello, dimentichiamo se vogliamo anche gli ultimi 10 minuti, si presenterebbe poi al Sei Nazioni con un bello spirito, un Sei Nazioni che oltretutto quest'anno, cioè nel 2013, ci proporrà 3 partite interne. Non so se Edoardo è d'accordo. Sì, sicuramente fare una buona prestazione e magari la vittoria storica sarà importantissima, non soltanto per il movimento, per gli appassionati e per la squadra, cioè, ma soprattutto per la squadra, perché a livello psicologico fare un'altra buonissima prestazione ci servirà tanto, perché dopo le Tonga c'era un po' di morale basso e affronti le partite in maniera troppo difficile. Poi grazie a Giacomo Bagnasco. Grazie a voi, grazie a Edoardo Gori soprattutto. Grazie anche a Edoardo Gori. L'appuntamento con Giacomo è per domani 16:35 per tornare comunque a riflettere di questo bel pomeriggio di sport. Oltre 73.000 spettatori oggi all'Olimpico, tutto esaurito, è stata comunque una bellissima festa al di là del risultato e della vittoria di Nuova Zelanda, della Nuova Zelanda per 42-10. Intanto è finita la partita del Chelsea e il Chelsea ha perso per 2-1 in trasferta contro il West Brom Bromwich Albion dunque arriva alla gara già decisiva di martedì a Torino di Champions contro la Juventus con le scorie di una sconfitta per 2-1, 5-0 del City sull'Aston Villa, Liverpool 3-0 sul Wigan. Questi sono i risultati della Premier, ma a Torino manca poco meno di 5 minuti al via di Juventus-Lazio, che apre una 13ª giornata che vivrà questa sera Napoli-Milan, poi tutte le sfide di domani pomeriggio che vi racconteremo in diretta a partire dalle 16:30 con la Moviola, tutto il resto e anche il prepartita del derby di Genova tra Samp e Genoa. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Giorgio De Luca in redazione, un saluto da Giovanni Capuano, l'appuntamento domani 16:30 con A Tempo di Sport.